Benvenuti a tutti. Puntata numero 5 di NBA Week, la trasmissione settimanale sulla stagione NBA 2016-2017 su Radio Big World. Puntata forzatamente influenzata dall'attesa per una delle notti più importanti della regular season, quella di Natale, con le sue consuetissime partite di cartello. Vediamo se riusciamo a parlarne velocemente. Iniziamo però dal mashup settimanale, premettendo che oggi è martedì 20 dicembre e che mi sono anticipato nella registrazione di un giorno perché, come vi potrete immaginare, una persona come me è totalmente indietro con i regali di Natale e con tutte le commissioni che prima della cognata, vacanze natalizie, bisogna compiere. Per cui mi sono anticipato di un giorno, perdonatemelo. Iniziamo quindi con il mashup rapidamente. 14 dicembre, il primo giorno che andiamo a analizzare. Lo ricorderemo principalmente per la schiacciata dell'Ernest Junior, tremenda, spettacolare, nella sfida tra Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets, finita 107-97 per i Brooklyn Nets. Questo video, se non l'avete già visto, potrete vederlo nel nostro blog medium.com/NBA Week a partire da venerdì mattina, con il post relativo a tutto quello di cui parleremo in questa trasmissione e i relativi video riportati. Dicevamo, 14 dicembre, lo ricorderemo anche perché i Memphis Grizzlies battono i Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers che non sono i Cleveland Cavaliers perché tengono a riposo tutti e tre i suoi grandi giocatori di squadra. Quindi né LeBron, né Love, né Kyrie Irving, Memphis vince. Contemporaneamente possiamo citare anche i San Antonio Spurs che battono i Boston Celtics. Boston Celtics che non mollano mai, senza Isaiah Thomas. Una ottima partita che abbiamo visto anche su Sky. Una grande prestazione per Kawhi Leonard, un ottimo Paul Gasol. Gli Spurs, a mio avviso, sono veramente temibili ad Ovest, e a maggior ragione se si considera che i due grandi vecchi, Parker e Ginobili, hanno ancora tanto tanto tanto da dire, e in questa partita lo hanno ampiamente dimostrato. 15 dicembre, da segnalare la sconfitta dei Chicago Bulls contro i Milwaukee Bucks dell'impressionante Giannis Antetokounmpo. Spero di averlo pronunciato bene perché è il nome più complicato della stagione NBA. In questa partita chiude con 30 punti e 15 rimbalzi. Non male, tra i Milwaukee Bucks anche Jabari Parker, che chiude con 28. 20 punti per Dwayne Wade, 28 per Butler, 19 per Ty Gibson, ma non bastano. Vittorie dell'Illinois che stanno vivendo un periodo un po' di galleggiamento, infatti la loro media vittorie sconfitte sta sul 50%. Contemporaneamente, nella stessa notte, da citare i Golden State Warriors che si gabbano dei New York Knicks per 103-90. Nonostante un pessimo Stephen Curry con 8 punti e 13 su 14 dal campo, e un Kevin Durant che chiude con solo 14 punti. Ci pensa Klay Thompson con 25 punti e un grandissimo JaVale McGee che parte da centro titolare e chiude con il suo season high 17 punti. I Warriors vincono la sfida di squadra rispetto agli assist, come loro consuetudine, 41-19. 16 dicembre, parliamo degli Atlanta Hawks che navigano in questa stagione intorno al 50% di vittorie, ma questa notte hanno la meglio contro gli ottimi Toronto Raptors, che sono una delle squadre ad est più quotate a livello di gioco. Atlanta scava un ottimo vantaggio nel primo tempo e chiude la partita 125-121. Tra gli Atlanta Hawks c'è 6 su 10 da 3 di Kyle Korver da ricordare, 24 punti in 19 minuti per Schröder. Prestazione piuttosto tranquilla per Paul Millsap, che chiude con 14 punti, e Super Dwight Tower che cattura 15 rimbalzi, di cui 7 offensivi, e chiude con la bellezza di 27 punti. Stagione della rinascita per Superman. Dall'altra parte, malgrado il solito duo Kyle Lowry e DeMar DeRozan, Lowry chiude con 6 su 8 da 3, 27 punti, DeRozan con 34 punti, i Raptors vengono sconfitti. 17 dicembre, OKC batte i Phoenix Suns per 114-101. Devin Booker fa 31 punti, ma Russell Westbrook compie probabilmente quella che è la prestazione della settimana. 26 punti, 11 rimbalzi e 22 assist. 22 assist, di cui uno strepitoso che avrete già sicuramente visto. Contemporaneamente, Houston piega per 111-109 Minnesota Timberwolves dopo un overtime. L'altro probabile MVP, quello con il barbone, chiude con 28 punti, 9 rimbalzi e 13 assist. Dalla parte di Minnesota Timberwolves, Karl Anthony Towns chiude con 41 punti e 14 rimbalzi. Potrebbe essere la prestazione della settimana per il sophomore. Purtroppo però Minnesota non ha vinto, quindi a mio avviso prestazione della settimana per Russell Westbrook. 18 dicembre, nottata di emozioni, si inizia a San Antonio, dove i San Antonio Spurs ritirano la maglia di Tim Duncan e c'è tutta una cerimonia super toccante che potrete andare a ricercarvi su YouTube. La vittoria è ovviamente per gli Spurs sui Pelicans per 113-100. Super Manu Ginobili da 17 punti in 18 minuti partendo dalla panchina, e il solito granitico Aldridge con 22 punti. Si prosegue poi a Philadelphia, dove i Philadelphia 76ers battono 108-107 i Brooklyn Nets, e dove abbiamo il career high di Joel Embiid, 33 punti, 10 rimbalzi, 3 stoppate in 27 minuti. Potenzialmente, visto il minutaggio, era la possibile, probabile prestazione prodezza della settimana. Ci staremmo ampiamente dentro. Super partita per il giovane Joel Embiid. Non male, contemporaneamente, anche Bradley Beal, che chiude con 41 punti nella vittoria dei Washington Wizards contro i Los Angeles Clippers per 117-110. Partita anche questa passata su Sky. A niente servono i 26 punti di Blake Griffin e i 13 punti con 17 rimbalzi di DeAndre Jordan. 6 su 10 da 3 per Bradley Beal, contemporaneamente 18 punti anche per John Wall. Una statistica sui Los Angeles Clippers: prima del ringraziamento il loro record era di 14 vinte e 2 perse ed erano seconde nell'NBA. Dopo il ringraziamento 6 vinte e 6 perse, sarebbero 18esime nella Lega. Un discreto calo recente per quella che attualmente è la principale squadra di Los Angeles. Chiudiamo con la partita della notte passata, il 19 di dicembre. Atlanta Hawks contro Oklahoma City Thunders. C'è tanto da dire. Gli Hawks vincono 110-108. Iniziamo con le statistiche individuali. Super Millsap da 30 punti e 11 rimbalzi. 31 con 8 assist per Schroeder, 15 per Sefolosha. Dalla parte di OKC c'è un uomo solo al comando, almeno da un punto di vista statistico. Si tratta di Russell Westbrook, che chiude con 46 punti, 11 rimbalzi e 7 assist. Però c'è un ma: fallisce per due volte il tiro del pareggio o della possibile vittoria. La statistica è indiscutibile ed è sui social quest'oggi. Russell Westbrook è in carriera 3 su 22 e 0 su 5 quest'anno quando tira per vincere negli ultimi 5 secondi di partita. Andate a riguardarvi il finale di questa partita, vedrete Russell Westbrook prendere due scelte molto molto molto discutibili, soprattutto la prima in penetrazione, che è una forzatura tremenda. Diciamo che questo è il lato oscuro di colui che al momento viaggia con i numeri di stagione da MVP indiscusso e che probabilmente è l'MVP fino adesso della Lega. Dicevamo, 25 dicembre, notte di Natale, solita, abituale notte di partita di cartello. Sky la tratterà perfettamente dando le due più importanti a mio avviso. Comunque andiamo a fare un piccolo elenco, perché la prossima puntata sarà principalmente descrittiva rispetto a queste gare. Si parte con il matinè alle nostre 18 del pomeriggio, un ottimo orario per risvegliarsi dal pesolino post pranzo natalizio. Vedremo Boston Celtics contro i New York Knicks. Poi, la portata principale, alle nostre 20:30 avremo il remake della finale NBA dello scorso anno, Golden State Warriors contro Cleveland Cavaliers. A differenza della finale NBA, come saprete, c'è un Kevin Durant in più però. Se non siete sazi, alle 23:30 italiane, anche questa, come ovviamente il remake della finale NBA, sarà in diretta su Sky Sport. Greg Popovich con i suoi San Antonio Spurs andranno a sfidare i Chicago Bulls di Dwayne Wade. Nella notte poi si prosegue ancora. OKC contro i Minnesota Timberwolves alle 2 di notte, ovviamente sempre orario italiano, e alle 4 e mezzo, se proprio volete assolutamente vedervele tutte, il derby di Los Angeles tra Clippers e Lakers. Considerando che pochissimi di voi lavoreranno per Santo Stefano e magari che, visti i regali natalizi, qualcuno potrebbe ricevere un NBA League Pass per queste festività, sapete bene cosa fare, o perlomeno sapete cosa fare tra il 25 e il 26 dicembre. Noi, come detto, proveremo nella prossima puntata, quella diciamo natalizia o perlomeno post natalizia, a analizzare tutte queste partite. Proseguiamo velocemente e andiamo con la rimembranza della settimana, ma prima della rimembranza della settimana facciamo un piccolo incipit sull'attualità. Prima di iniziare partiamo quindi da una piccolissima notizia che esula dal pianeta NBA. Come sapete, in NBA in questo momento stanno giocando due italiani, Marco Bellinelli e Danilo Gallinari, rispettivamente Hornets e Nuggets. Si è molto parlato però nell'ultima settimana del possibile arrivo di Gentile a Houston, perché Gentile ha rotto con l'Olimpia Milano e, come sapete, il nostro carissimo Alessandro, che è un po' croce e delizia delle ultime spedizioni azzurre della nazionale, nonché figlio del leggendario Nando Gentile, che io ho avuto la fortuna di veder giocare, vi posso garantire, super cervello, super giocatore, quantomeno a livello di basket italiano ovviamente. Il nostro amico Gentile è stato selezionato in NBA nel draft 2014 dei Minnesota Timberwolves, che poi cedettero i diritti agli Houston Rockets. Malgrado questo, la guardia classe 92 non ha mai abbandonato Milan fino ad oggi, però è stata recentissima la rottura con l'Armani Jeans, che aveva riproposto l'opportunità che Alessandro potesse approdare a Houston alla corte di Mike D'Antoni, in una delle squadre che attualmente stanno rappresentando la vera rivelazione di questa stagione NBA. Purtroppo per l'Italia niente di fatto. Già quest'estate Gentile aveva provato e si era dichiarato pronto per andare a giocare a Houston, ma alla fine era rimasto in Lombardia perdendo pure la fascia di capitano e favorendo così una rottura che ha raggiunto l'apice massimo in questi giorni. Si è a lungo parlato quindi del suo arrivo a Houston a fine della scorsa stagione, o comunque tra la stagione scorsa e questa, non è accaduto niente, è stato riproposto in queste settimane, in realtà niente di fatto comunque. Gentile ha firmato infatti con il Panathinaikos e chiuderà la stagione in Grecia. Quella che sembra però la motivazione ufficiale, secondo quanto riportato da David Peck, i Rockets non hanno assolutamente voluto Gentile, né in estate né in oggi. Quindi l'approdo NBA è probabilmente, forse, rimandato alla prossima stagione, probabilmente in un'altra squadra, perché evidentemente in questo momento Houston di Gentile non saprebbe cosa farsene. Questo era un piccolo incipit, perché? Perché nella rimembranza vogliamo parlare invece dei primi due italiani che sono arrivati nella NBA, oltre ovviamente a tutti quelli che ci sono passati, che non sono poi così tanti. Nella rimembranza della settimana andiamo alla stagione 95-96, perché in quella stagione per la prima volta due italiani approdano nella NBA. Si tratta di Stefano Rusconi e Vincenzo Esposito, due giocatori che in Italia facevano, come si suol dire, le buche in terra e che in questa stagione, che sarà la loro prima e unica in NBA, non avranno certo una carriera rispettabile, o quantomeno non sarà la loro miglior stagione della vita da un punto di vista statistico di minutaggio di gioco. Malgrado questo però sono entrati nella storia come i primi due dei nostri che hanno varcato l'oceano per giocare a basket nel campionato più importante del mondo. Iniziamo da Stefano Rusconi. Stefano Rusconi venne scelto nel draft del 1990 dai Cleveland Cavaliers, al secondo giro ovviamente, e poi venne ceduto ai Phoenix Suns. Restò in Italia, tempo giusto di vincere qualcosa con la Benetton Treviso, e per qualcosa dico scudetti e coppe, e poi nel 95 decise di volare in Arizona, in una delle squadre che al tempo non era così decisa di garantirgli grande spazio, anche perché era una delle squadre contender per il titolo definitivo dell'NBA, o quantomeno lo speravano. Troppo basso per essere un lungo il nostro Rusconi, troppo poco rapido e troppo poco tecnico per fare l'ala in NBA. Il risultato finale è che giocherà solamente 7 partite per un totale di 30 minuti e 8 punti totali. Non riuscirà mai ad ambientarsi, tornerà velocemente in Italia dove riprenderà a vincere con la Benetton Treviso. Semplicemente passa la storia per esserci andato, passa la storia per aver messo piede in campo, non certo per i suoi risultati. Un po' meglio, anche se i risultati sono più o meno simili, per Enzino Esposito, diciamo un po' più perseverante. In Italia era stato esplosivo, prima con Caserta e poi con la Fortitudo Bologna. Alla fine decise di firmare per i Toronto Raptors, con i quali riuscirà a disputare una trentina di partite giocando in media 9,4 minuti a partita per chiudere con una media di 3,9 punti per gara, quindi 4 punti a partita. Il suo incontro di maggior impatto è stato quello contro i New York Knicks al Madison Square Garden, nel quale si mise a segno 18 punti. Oltre ad aver tenuto durante quel periodo una rubrica su American Super Basket dove raccontava le sue impressioni, i suoi racconti sull'NBA, non ha fatto nient'altro di così citabile ad oggi. L'anno dopo decise anche lui di tornare in Italia, a Pesaro, per proseguire una carriera da protagonista profeta in patria. Diciamo che la differenza tra Esposito e Rusconi stava solo ed esclusivamente nel fatto che i Raptors in quegli anni erano una franchigia nuova e quindi poteva permettersi di mettere in campo un pochino di più, neanche troppo, il povero Enzino. Rusconi effettivamente, io ricordo anche in quegli anni di non averlo mai valutato tecnicamente in grado e capace di poter sostenere 5 minuti consecutivi in campo in una partita vera di basket NBA. Comunque, questi due hanno aperto la strada ai vari Datome, Gallinari, Bellinelli, Bargnani che sono venuti dopo. È giusto ricordarli, è giusto farlo in questa rimembranza della settimana. Prima di chiudere vorrei anch'io fare un piccolo ricordo per un personaggio importante dell'universo NBA che è scomparso in questa settimana. Si tratta di Craig Sager, lo storico telecronista, anzi bordocampista della TND, che ha combattuto a lungo con una leucemia, restando comunque sul pezzo fino alla fine negli ultimi anni, divenuto negli ultimi anni proprio il simbolo dell'NBA e del never give up, non a livello di gioco ma a livello di vita. È stato portato come esempio, coccolato, lodato, rispettato, ma purtroppo si è spento il 15 dicembre, ha ceduto alla malattia inevitabilmente. Cordoglio unanime in questa settimana da tutto il mondo NBA. Anche noi diciamo riposa in pace Craig Sager. Vi salutiamo con questo ricordo, potrete vedere un video molto toccante diffuso dalla TND e riprodotto dal nostro Belli 13 nel suo canale YouTube, nel nostro post all'interno del blog medium.com/NBAWeeks che esce tutti i venerdì dopo la messa in onda di questa trasmissione. Cogliamo l'occasione per farvi anche i nostri auguri di Natale, ci sentiamo giovedì prossimo per analizzare quella che sarà la notte più importante dell'anno che abbiamo presentato. Come sapete, tutti i giovedì sera alle 21.30 diretta streaming su Radio Big World, a partire dal venerdì mattina la trasmissione in podcast su SoundCloud di Radio Big World e i video su YouTube ospitato dal nostro Belli 13. Grazie a tutti per l'attenzione, alla prossima settimana. It's over. It's over. It's over. It's over.